Beh, Floyd, questa sei per tutti quei che si crede da essere Dio in terra, ma in sostanza non ce n'è abbastanza. Punto fisso, randone nei borsi, senti qua. In sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, che si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non pare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, che si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non pare cambio per niente. Ascolta fratello, dimmi qual è il problema, cos'è quello sguardo strano, facciamo parte del sistema. Perché oggi ognuno è libero di essere il poeta della sua vita e nessuno gli può imporre alcuno schema. No, no che non può, non può scegliere chi resta un attimo e poi ucciderlo. No, no che non può, non può uccidere un pensiero prima di ascoltarlo. E questo che mi blocca, te lo dico un'altra volta, perché giudichi la gente quando non ti tocca. Ma basta con le occhiate, è giunta l'ora della svolta. Il mio petto è stato chiaro, il resto non importa. E in sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente. Tega il problema di torta super macchina, mico il problema di guidare con un accento. Là la differenza tra noi altri sei in abisso. Te vuoi parire figo, ma sostanza non te nega addosso. Quindi non dico di essere il migliore di sicuro al mondo, c'è qualcuno in gamba con più storia. Ma vorrei solamente che per una volta guardassi un po' più a fondo e non con la bocca storta. E in sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Pensi figo, pensi bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, te si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente. Canta il leone dalla foresta nera, canta il leone senza la sua criniera. Canta per la rabbia, canta per il dolore, è stufo di essere visto solo come un animale. Stufo di essere addomesticato, vuole dare suo calore a questo mondo malato. Ha avuto una missione che deve portare avanti e diventare il re e liberarli tutti. Resto da barbon, paro uno strazzo. Tutti che mi dice, ma di chi ti si fiol? Mi sento il fiol d'un uomo che mega che su col cuore. Io uso la testa prima di parlare. E in sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza, credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente, ma resto come sono, non fare cambio per niente.